100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Oggi è l'ultimo giorno di campagna elettorale e poi è probabile che da lunedì tutti i partiti politici si affanneranno a spiegare le ragioni del voto e soprattutto a valutare, in base alle percentuali, la forza politica. C'è molta voglia di contarsi, ma i partiti farebbero bene a contare anche i numeri che anche ieri sono stati inesorabili nei confronti di una ripresa italiana che è al di là dal venire. La produzione industriale in calo di uno 0,4% e soprattutto gli ordinativi industriali con un calo analogo segnalano che l'Italia è tutt'altro che fuori dalle secche della recessione. E sempre la prossima settimana, mentre furoreggerà il dibattito politico, i nostri partiti farebbero bene a ricordarsi che martedì, con un giorno di ritardo, arriverà anche la risposta europea alla nostra legge finanziaria. E oltre che contare il loro peso specifico nel paese, dovrebbero cercare di contare un po' di più in Europa e chiedere all'Europa finalmente misure concrete per la crescita. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Quasi non passa giorno senza una qualche notizia sulle malefatte delle grandi banche americane. Ieri il Senato USA ha concluso un'indagine durata 2 anni sulle 3 big del credito a stelle strisce, JP Morgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley. La tesi è che queste banche hanno speculato in modo irresponsabile sulle commodity, le materie prime, fino a mettere a rischio la stessa stabilità finanziaria del paese. In vari modi questi 3 big del credito avrebbero aggirato o eluso i limiti che la legge americana impone alle azioni speculative per le banche in questo campo, facendo così operazioni borderline su materie quali l'uranio, il rame, l'alluminio, il petrolio, grazie alle quali naturalmente sono aumentati anche i bonus dei manager che le hanno gestite. Le autorità di vigilanza e controllo, sempre secondo i senatori americani, o hanno fatto orecchie da mercante o non hanno saputo svolgere il proprio compito. Del resto è l'ennesimo colpo alla reputazione delle grandi banche globali. Le banche italiane, va detto, non c'entrano. I grandi nomi del credito planetario hanno già pagato circa 200 miliardi di dollari in multe e sanzioni per aver attuato comportamenti fraudolenti sui tassi interbancari, Libor ed Euribor, quelli da cui dipendono i tassi dei nostri mutui, sui derivati e sui mutui subprime. Ma, come dimostra l'indagine del Senato americano, non è certo finita qui. Le principali 8 banche del mondo hanno già accantonato in bilancio 8 miliardi di dollari per il rischio di ulteriori multe. I fondi sono un nulla rispetto a un altro capitolo che le autorità di controllo hanno aperto in questi giorni, la manipolazione dei tassi di cambio. Si tratta di un contenzioso che nel complesso potrebbe valere fino a 40 miliardi di dollari e finora ha dato origine al suo debutto a multe per altri 4 miliardi di dollari. La lezione comunque è chiara. C'è qualcosa, e forse ben più di qualcosa, che non va nelle regole sulla vigilanza della finanza americana. Non avete anche voi la sensazione che finora abbiano coperto i furbi e le loro furbate?